Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, il protagonista di questa prima parte della trasmissione è una nota intellettuale italiana, giornalista, poetessa, scrittrice, con la particolarità di essere veramente una cittadina del mondo e in particolare di conoscere benissimo l'ambiente britannico, visto che Londra in pratica è diventata la sua seconda casa. E il personaggio è Gaia Servadio, autrice di un'autobiografia che si intitola Raccogliamo le vele, questo è un titolo di ispirazione virgiliana, pubblicato da Feltrinelli, 446 pagine, 22 euro. Un'autobiografia, dicevo, che per la ricchezza delle esperienze vissute dall'autrice diventa anche un ritratto degli ultimi 50 anni, soprattutto dal punto di vista culturale e non soltanto per l'ambito italiano. Si parte quindi negli anni della prima fanciullezza, che naturalmente lasciano una traccia indelebile su Gaia Servadio per le persecuzioni razziali che colpiscono, anche con la scomparsa di persone care, la famiglia della piccola Gaia. Appunto, poi c'è il ritorno alla normalità dopo la guerra, la ripresa dell'Italia e la costruzione del proprio futuro come giornalista e intellettuale, in una carriera vissuta con passione, entusiasmo, curiosità e anche un pizzico di eccentricità favorita appunto dalla lunga permanenza londinese. Ma sentiamo l'autrice. Buonasera Gaia Servadio. Buonasera. Gaia Servadio, nel suo libro ho trovato una frase molto significativa. A un certo punto lei scrive: la maturità si stacca dall'impaccio del comportamento. La vera maturità arriva quando ci si sente liberi di dire e di fare senza pensare al giudizio degli altri, quando non si è più imbarazzati. Ecco, nella sua carriera letteraria, questo libro quindi che cosa rappresenta? Una prova di maturità, anche se una signora per definizione non è mai matura. Spero di esserlo, se no mi butto dalla finestra, devo dire. Direi che ci sia un grido di gioia di essere diventata matura, cioè di invecchiare. Tutti noi invecchiamo, se non invecchiamo è un disastro, vuol dire che siamo morti. E la maturità è proprio, per me, è proprio quello, un senso di libertà. Non so se ognuno di noi è così diverso, ma anche questo distacco dalle preoccupazioni del comportamento sociale, diciamo, di dover far finta su certe cose, su certe situazioni, io lo vedo come una libertà. Uno dei primi personaggi che ha dimostrato di avere una grande influenza sulla sua formazione è Danilo Dolci, che tra l'altro le consentì di entrare in contatto con la BBC e di andare, mi pare, per la prima volta in Sicilia. Poi nel suo libro ritorna successivamente sui temi contro i quali combatteva Dolci, cioè la mafia. Ecco, che cosa ha rappresentato questo incontro e questo filone della sua attività anche giornalistica? Danilo Dolci ovviamente per me è stato molto importante, anche perché era una persona che si era data al bene, al fare, con queste cose abbastanza geniali. Quando io arrivai a Trappeto, dove lui si era trasferito dopo una famosamente scandalosa, diciamo, soggiorno, quando con Don Zeno avevano inventato un centro per aiutare gli orfani della guerra, scandalosa, dico, non certo per lui, ma scandalosa da parte della Chiesa, che li minacciò di scomunica. Lui aveva inventato a Trappeto lo sciopero a rovescio, cioè i braccianti che non avevano lavoro lavoravano per fare una strada che era stata proibita dalle autorità e in effetti dalla mafia, per collegare Trappeto con Partinico. E questa idea dello sciopero alla rovescia, bisognerebbe dirlo oggi, che si sciopera per tante ragioni, ma non certo così costruttive, e questa era un'idea fantastica. Difatti Danilo Dolci venne arrestato e difeso dal meglio dell'Italia. Poi nel suo libro un altro aspetto interessante e di attualità è la fascinazione per il Partito Comunista. Di attualità perché a un certo punto lei ricorda per esempio il ruolo che ebbe Giorgio Napolitano nel presentare la nuova linea del Partito Comunista Italiano ai circoli britannici, in particolare londinesi. Si parla nel libro anche di un suo primo viaggio in Russia, nel quale, fra l'altro, notato, ci sono pochi o nessun commento sulla situazione. Lei parla della presente la Russia dal punto di vista così sociale, culturale, eccetera, ci sono pochi accenni alla situazione politica di quegli anni, che sono gli anni duri del regime comunista. Ecco, che cosa ha rappresentato questa esperienza nella sua vita? Beh, prima di tutto col Partito Comunista il mio primo, diciamo, legame fu a Parma, che era una città comunista, adesso sembra uno scherzo dirlo, con un sindaco fantastico, partigiano, uno degli eroi del mondo partigiano, che mi dettero un ruolo. Io ragazzina snobbata, perché anche non solo giovane ma ebrea, quindi non ben accolta per niente, mi diede un ruolo fantastico, cioè un nuovo circolo di cinema che difatti si chiamava Charlie Chaplin, allora maledetto dal macartismo, e insomma, mi sentii improvvisamente importante. E poi naturalmente del PC mi piaceva tutto l'anticlericalismo e anche il senso di ribellione che certamente c'era in me ragazzina, e allo stesso tempo anche la disciplina di partito. Io, una donna molto, insomma, crescendo come donna indisciplinata, invece c'era una disciplina molto ferrea. Poi quando vado in Unione Sovietica, varie volte tra l'altro, siccome del libro parlo di una visita a Stalingrado, che poi era diventata Volgogrado per ragioni di rifiuto a Stalin, no, io dico che, insomma, faccio anche degli scherzi, insomma, degli scherzi velati, che era un regime tremendo, spie dappertutto, libertà Nix, non si poteva parlare, insomma, non era una società fantastica e libera. Certo, ci sono tornata abbastanza recentemente, direi che le cose forse sono un po' peggiorate, quindi, e anche questo lo dico, che il mondo russo si è sempre molto mal gestito, da Ivan il Terribile a Stalin, oppure di mezzo sempre quasi delle società gestite da un'anarchia grillesca, quindi non è che i poveri russi, che a me piacciono molto, si siano ben trovati politicamente. Poi il Partito Comunista, quando ero a Londra, io certamente sono stata una specie di colonna, più per Paietta, perché io adoravo, una persona che a me piaceva moltissimo, e Miriam Mafai, che era la sua compagna straordinaria, e anche lì certamente ho avuto un ruolo per il PC e l'allora deputato Giorgio Napolitano, col quale dividevo tra l'altro molti gusti, certamente quello per la musica, per esempio, che fece questa cosa meravigliosa di, tra l'altro, di far sì che la Scala potesse venire a Londra, perché c'era stato un veto, e certamente io ho aperto per quel che potevo le porte del Partito Laburista, dandomi molto da fare su quello, e allora tra l'altro come giornalista conoscevo tutti, e anche come amica, ero molto amica di Healy, che era allora ministro degli interni, della difesa, eccetera eccetera. Insomma, quel vecchio Partito Comunista aveva degli uomini di primissima qualità. A un certo punto lei appunto arriva a Londra nella metà degli anni 50, diventa di fatto londinese. E ecco, che cosa ha rappresentato questa città e soprattutto come la trova adesso? Perché a un certo punto, sulla fine del libro, lei dà un quadro un pochino più problematico dell'Inghilterra e della Londra di oggi. Certamente io ho scelto di rimanere a Londra, dove ero andata per studiare non inglese ma la grafica, in effetti. E poi anche la città ha scelto bene, nel senso che mi sono sposata lì, la mia famiglia, i miei amici, in fondo sono 50 anni, quindi la mia vita è più londinese che altro. La città è cambiata come tutto il mondo è cambiato, ai miei occhi per il peggio, ma tutti i vecchi dicono sempre che il presente è peggiore del loro passato, quindi anche lì dobbiamo stare attenti. Io credo che il regime thatcheriano e poi Tony Blairiano sia stato veramente devastante per l'Inghilterra, per le istituzioni inglesi, intanto con la creazione, specialmente questo Tony Blair e Brown, di una burocrazia enorme, un po' all'italiana per aver voti, che ha appesantito uno Stato che invece era molto più veloce, diciamo. E anche istituzioni come l'assistenza sanitaria, che adesso è, direi che sia peggio che in Uganda, e anche e tante altre, l'educazione, sempre l'istruzione, nessuno ce la fa mai a fare delle vere riforme, e quindi l'istruzione, diciamo, per la parte più povera, quindi per il 90%, non più povera, ma la parte meno abbiente, diciamo, è un disastro. E quindi è, insomma, un paese che non può contare su una buona istruzione della media, e comunque è zoppo. Ma certamente l'Inghilterra per forza doveva cambiare, perché era ancora un paese con delle tentazioni, con delle memorie coloniali che ancora ha, quando, insomma, per esempio, per fortuna il Parlamento inglese ha fermato Cameron dall'intervento in Siria, ma insomma lì c'è sempre questa idea del colonialismo e di mandare un esercito che ormai tra l'altro è povero e spoglio in giro per il mondo, quando non ci sono né i soldi né le ragioni per le quali l'Europa o l'Inghilterra debba impicciarsi di affari che sono tristi, spaventosi, ma non certo affari nostri. Nonostante tutta questa situazione, però, tantissimi giovani italiani stanno seguendo la sua strada e vengono a lavorare a Londra. Londra continua a esercitare un fascino straordinario sui nostri giovani. Anche perché Londra, proprio per quello che dicevo prima, ha molto bisogno di persone, diciamo, ben istruite, e la scuola italiana è molto migliore della scuola inglese. Io conosco dei giovani italiani che adesso lavorano a Londra, alcuni sono professori, c'è un giovane genio secondo me che lavora alla Warburg, che dà delle lezioni fantastiche su Dante, poi ci sono sono molti professori italiani. In Italia però sarebbero ancora precari probabilmente, esatto, questa esatto. Forse è la differenza. Questa è la differenza. E poi l'altra cosa meravigliosa, diciamolo, dell'Inghilterra, che non esiste la raccomandazione. Se tu sei capace, vuoi darti da fare, eccetera, eccetera, vai dritto. Quindi i giovani italiani avranno un bel breviario da leggere nel libro di Gaia Servadio, Raccogliamo le vele. Grazie e buona serata. Grazie a lei. Con Gaia Servadio abbiamo parlato di Danilo Dolci, una affascinante figura di intellettuale che visse fra il 1924 e il 1994 e che nel 1952 si era appunto trasferito a Trappeto, in provincia di Palermo, per iniziare un lungo impegno accanto ai proletari del sud e contro la mafia, un impegno che fu punteggiato da numerose e clamorose manifestazioni, soprattutto di carattere non violento, come lo sciopero della fame o lo sciopero che ricordava Gaia Servadio alla rovescia, che ebbe a luogo a Partinico il 2 febbraio del 1956. Questo intellettuale lo incontriamo in un libro di Giacinto Spagnoletti, che a sua volta fu un importante saggista e critico letterario, che nel 1977 pubblicò un libro che nasceva da una lunga serie di incontri con Dolci, Conversazioni con Danilo Dolci, pubblicato adesso da Mesogea, 234 pagine, 18 euro. Il libro è una testimonianza interessante e importante, anzi, sulla politica in Italia degli anni 50 e 60, sugli intrecci tra politica e mafia, ma soprattutto su questa figura, quella di Dolci, che fu particolarmente originale ed è rimasta purtroppo isolata. Dolci diede vita a un'esperienza straordinaria e complessa, come la definisce il figlio amico nella prefazione, e fu capace anche di grandi anticipazioni, come quando scrisse, ricorda sempre il figlio, questa frase: il desiderio di comunicare sta divenendo una necessità maieutico-poetica nel mondo, proprio nell'era in cui furbescamente il dominio ghignante tenta di imporsi elettronicamente. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Parliamo adesso del rapporto tra innovazione e comunicazione e degli strumenti sui quali si attua questo rapporto, strumenti che ci sono diventati di uso quotidiano e spesso per alcuni di noi anche di uso addirittura compulsivo, per esempio Twitter. E proprio su Twitter segnalo il libro di Nick Bilton, giornalista del New York Times, dove segue anche con un blog proprio il tema del rapporto tra innovazione e cambiamenti sociali. Il libro si chiama Inventare Twitter, una storia di potere, denaro, amicizie e tradimento, pubblicato da Mondadori, 324 pagine, 18 euro, tradotto da Sara Crimi e Luca Fusari. Questa è una ricerca minuziosa condotta anche attraverso ore e ore di interviste ai quattro che fondarono Twitter e ai membri che poi si sono succeduti nel consiglio d'amministrazione della società, ed è condotta questa inchiesta con grande senso della narrazione, così per esempio l'uscita di scena circa tre anni fa fa di Evan Williams, che era l'amministratore delegato e fondatore della società, assume quasi i tratti di un autentico colpo di Stato, anzi di un perfido e sanguinoso colpo di mano, come scrive l'autore, orchestrato da consiglieri di amministrazione che lui stesso aveva nominato, alcuni dei quali erano stati i suoi amici più cari e da certi cofinanziatori dell'azienda. La società era nata da poco, nel 2005, in California, ad opera appunto dello stesso Williams, che era diventato ricco vendendo blogger a Google, di Jack Dorsey, Christopher Stone e Noach Glass. E il successo della società fu clamoroso, ma punteggiato da un'altrettanto clamorosa lotta di potere per impossessarsi di uno strumento che aveva di gran lunga superato le prospettive e gli scopi per cui era stato pensato, ossia, come scrive l'autore, quello di farne una piattaforma di messaggistica dove puoi lasciare un messaggio da far ascoltare a un gruppo di amici. E qui abbiamo la storia di questo straordinario successo, punteggiato da grandi capacità innovative, non meno che da spietate lotte, come abbiamo visto, per il controllo della società. E da questo libro vi propongo alcune righe che spiegano perché fu scelto proprio questo nome, Twitter. Sebbene il resto del gruppo non si mostrasse troppo preoccupato dalla questione del nome, Noah ne era ossessionato, fino da quando al Ticcio ne aveva parlato con Jack in auto. Aveva trascorso la domenica, il lunedì, il martedì e adesso il mercoledì alla ricerca di un nome che avesse senso. Rintanato nel suo ufficio, aveva saltato il pranzo con i colleghi per tutta la settimana. Quando arrivò a casa il mercoledì sera, ricominciò a sfogliare il dizionario, ma le sue riflessioni continuavano ad essere interrotte dai trilli degli SMS in arrivo sul suo telefono. Irritato da quell'intrusione, allungò la mano e mise il cellulare in modalità silenziosa, lasciandolo a vibrare lievemente sul tavolo. A quel punto Noah si interruppe di colpo e osservò il telefono. Poi lo riprese e lo tenne in mano. Lo accese e lo spense, guardandolo fremere delicatamente. «Vibrare», pensò, affrettandosi a controllare la parola sul dizionario. Fremere, scuotersi, agitarsi, muoversi avanti e indietro rapidamente. La cosa lo entusiasmò all'istante. Il cellulare che vibrava lo indusse a pensare agli impulsi cerebrali che provocano uno spasmo muscolare, un tic, twitch. No, non funzionerebbe, pensò. Continuò quindi a cercare fra i lemmi che iniziavano con TW, twister, twist tie, tweet, twitch, twitcher, twitch, twite, e poi eccolo lì, emettere un canto lieve e ripetuto, detto dei passeri e di altri uccelli. Il cuore cominciò a martellargli nel petto mentre continuava a leggere. Chiacchierare sommessamente e animatamente, specialmente di argomenti futili e frivoli. È lui, pensò. Agitazione, fibrillazione, palpito. Un verbo. Twitter. Cinguettare. Twitter. Twittato. Twittare. Twitters. E a proposito di guerre di potere in ambito informatico, vi segnalo La battaglia dei titani di Fred Vogelstein, che è anch'egli un giornalista americano, collaboratore di molte testate prestigiose. Il libro è pubblicato anch'esso da Mondadori, 254 pagine, 17,50 euro, tradotto da Luca Fusari. E ci parla di due titani, cioè Apple e Google, che, come recita il sottotitolo, sono entrati in guerra e hanno dato inizio a una rivoluzione. Con l'iPhone, lanciato appena 7 anni fa, Steve Jobs, scrive l'autore, diede inizio a una rivoluzione digitale che oggi ha raggiunto quasi tutti gli angoli del mondo civilizzato. Ha fatto da trampolino di lancio un nuovo redditizio settore dell'industria informatica, quello delle app, che dal 2008 in poi ha generato ricavi per più di 10 miliardi di dollari. L'iPhone ha stravolto la nostra idea non solo di telefono cellulare, ma anche di computer, con la prospettiva che chi vince prende tutto, dice l'autore, in un settore che condiziona sempre di più la nostra vita e la nostra attività. Nei prossimi anni, scrive perciò l'autore, gran parte di ciò che consideriamo informazione, notizie, intrattenimento, comunicazione, ci giungerà attraverso la piattaforma di Google o quella di Apple, e quindi il duello sarà molto duro, con conseguenze in tutti i settori, in primo luogo l'informazione, che sta già pagando. l'errore fatto alla fine del Novecento, quando si pensò che lo strumento del futuro fosse il personal computer, sostituito invece in poco tempo dai tablet. Chi vincerà questa guerra? Leggete il libro e avrete uno scenario molto convincente della realtà che ci attende tutti. E dopo le nuove tecnologie parliamo di due piattaforme antichissime, chiamiamole con il nome moderno, due strumenti remoti, archeologici, come la scrittura e la parola. E sulla scrittura segnalo agli appassionati dello scrivere bene il libro di Francesca Serafini, che è una sceneggiatrice e studiosa della lingua, che si intitola Questo è il punto, istruzioni per l'uso della punteggiatura. È pubblicato dalla Terza, 138 pagine, 8,50 euro. Divertente anche la dedica a un Fabio, considerato il suo punto fermo. E il punto è una cosa seria, ci spiega l'autrice, perché, come diceva il grande scrittore russo Isaac Babel, non c'è ferro che possa trafiggere il cuore con più forza di un punto messo al posto giusto. Babel annuisce soddisfatto a questa frase che trova, prende una matita, ci scrive l'autrice, e finalmente si siede, aggiungendo a margine, senza contare quello che può fare una virgola. E allora troviamo qua un manuale all'uso della punteggiatura per capire a che cosa serve, come ricorrervi, con un glossario per non sbagliare su parentesi, punti, punti di sospensione, sbarrette, eccetera, eccetera. E un'avvertenza finale: dominare la punteggiatura serve a rendere possibile la comunicazione. Invece la parola, nella sua forma forse più sontuosa, troviamo in un libro dedicato a una scienza antica quanto l'uomo e mai caduta in disuso, e cioè la retorica. Lo troviamo nel libro di Sam Leith, scrittore e giornalista britannico, che si intitola Fare colpo con le parole, pubblicato da Ponte alle Grazie, 314 pagine, 22 euro, tradotto da Matteo Columbo. Serve ancora la retorica ai giorni nostri? E come? Che serva lo dimostra la storia di quest'arte, quella di convincere con le parole i propri simili, un'arte che ha mosso i primi passi nell'antica Grecia fino all'apoteosi del XXI secolo, punteggiata anche dagli incontri con i grandi della persuasione, nel bene e nel male, che qui incontriamo da Hitler a Erasmo, e anche con qualche sorpresa. Per esempio, ci scrive l'autore che George Bush non è stato poi così stupido, mentre Winston Churchill non fu sempre il grande oratore che la posterità ricorda. Troviamo molte testimonianze, per esempio uno dei più celebri discorsi della storia, quello tenuto da Abramo Lincoln a Gettysburg il 19 novembre del 1863. Un discorso che vi posso adesso proporre integralmente, perché è tanto leggendario quanto breve. Or sono 16 lustri e 2 anni che i nostri avi costruirono su questo continente una nuova nazione, concepita nella libertà e votata al principio che tutti gli uomini sono creati uguali. Adesso noi siamo impegnati in una grande guerra civile, la quale proverà se quella nazione, o ogni altra nazione così concepita e così votata, possa a lungo perdurare. Noi ci siamo raccolti su di un gran campo di battaglia di quella guerra. Noi siamo venuti a destinare una parte di quel campo a luogo di ultimo riposo per coloro che qui diedero la vita, perché quella nazione potesse vivere. È del tutto giusto e appropriato che noi compiamo quest'atto, ma in un senso più vasto, noi non possiamo inaugurare, non possiamo consacrare, non possiamo santificare questo suolo. I coraggiosi uomini, vivi e morti, che qui combatterono, lo hanno consacrato al di là del nostro piccolo potere di aggiungere o detrarre. Il mondo noterà appena, né a lungo ricorderà ciò che qui diciamo, ma mai potrà dimenticare ciò che essi qui fecero. Sta a noi viventi, piuttosto, il votarci qui al lavoro incompiuto, finora così nobilmente portato avanti da coloro che qui combatterono. Sta piuttosto a noi il votarci qui al gran compito che ci è di fronte. Che da questi morti onorati ci venga un'accresciuta devozione a quella causa per la quale essi diedero della devozione l'ultima piena misura. Che noi qui solennemente si prometta che questi morti non sono morti invano. Che questa nazione, guidata da Dio, abbia una rinascita di libertà e che l'idea di un governo di popolo, dal popolo, per il popolo, non abbia a perire dalla terra. La retorica, dice l'autore, ci riguarda tutti, non è una disciplina accademica, scrive, un campo del sapere riservato agli oratori professionisti, è qualcosa di vicino e di presente che sta nella controversia con la compagnia assicurativa, nella richiesta di un buon tavolo al ristorante o nelle suppliche che indirizzate ai vostri figli con la faccia sporca di marmellata perché mangino la verdura. E qui appunto tanti esempi per vincere queste tensioni. E a questo punto... Il confettino. Le parole possono essere misteriose, come la parola cimpa, che è il titolo del libro di una scrittrice portoghese, Catarina Sobral, pubblicato dalla Nuova Frontiera Junior, tradotto da Marta Silvetti, 16,90 €, che rappresenta un primo strumento per avvicinarsi giocando alla grammatica e alle sue categorie. Ultimi arrivi. Vi segnalo oggi il titolo di un giornalista americano ormai italianizzatosi, Alan Friedman, che ha pubblicato Ammazziamo il Gattopardo con Rizzoli, 300 pagine, 18 €. Questo è il libro di cui si è parlato nei giorni scorsi sulla politica italiana degli ultimi anni, in particolare sulle ricette per uscire dalla crisi. Poi vi segnalo una protagonista dell'arte contemporanea, Lea Vergine, che raccoglie i suoi scritti e interventi in La vita, forse l'arte, pubblicato da Archinto, 140 pagine, 15 €, nel quale troviamo molti protagonisti dell'arte contemporanea, visti attraverso le riflessioni di una delle critiche studiose più autorevoli. Poi troviamo una storia di donne nel libro Amiche mie di Silvia Ballestra, la vita quotidiana di Sofia, Carla, Norma e Vera, quattro milanesi normali alle prese con problemi che le costringono a ripensare la propria vita e i propri rapporti. E infine vi segnalo di Giuseppe Catozzella Non dirmi che hai paura, pubblicato da Feltrinelli, 236 pagine, 15 €. Questa è la storia vera e straordinaria di una ragazza somala appassionata di corsa che partecipa alle Olimpiadi di Pechino e soprattutto di Londra e dovrà per questo sopportare le angherie degli integralisti fino alla decisione fatale di affidarsi a un barcone per raggiungere l'Italia. Prima di salutarci vi ricordo che a Roma dal 13 al 16 marzo all'Auditorium Parco della Musica avrà luogo la quinta edizione di Libri come la festa del libro della lettura. Il tema di quest'anno è il lavoro e incontreremo in questo appuntamento protagonisti della narrativa e della saggistica italiana e internazionale. Avremo l'opportunità di assistere a dei dialoghi a due voci, ci saranno anche appuntamenti dedicati agli intrecci con la musica, con il disegno, ci sarà per esempio Tullio Pericoli, all'approfondimento legato all'editoria e naturalmente molti appuntamenti dedicati alla scuola. E con questo ringrazio Luca Cremonesi in redazione e Filippo Oreggi in regia. Ricorda il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro @radio24.it e il nostro sito www.radio24.it dove potete sempre riascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento a domenica prossima.